Letture di Radio 24. Con le nevicate dei giorni scorsi non c'è da stupirsi nel vedere una gara di sci organizzata sul vulcano attivo più grande d'Europa. Ma il trofeo dell'Etna, che si svolgerà i prossimi 23-24 febbraio, è giunto ormai alla sua quinta edizione. Segno che con i mutamenti climatici degli ultimi anni, un vulcano può presentare le stesse rigide condizioni delle Alpi. Purché si faccia attenzione alle brevi eruzioni notturne. Con la bufera che ci acceca e cancella ogni traccia, non ci resta che rassegnarci. Per oggi non è il caso di spingerci oltre. Possiamo già star contenti di essere arrivati fin qui, alla fine della strada che da Nicolosi in mezz'ora raggiunge il rifugio Sapienza, punto di partenza della funivia dell'Etna, a 1900 metri di quota. Negli ultimi chilometri della provinciale siamo saliti a stento tra due muretti di neve, come dentro a una trincea che il vento radente cerca di riempire un po' alla volta. A bordo della vecchia panda 4x4 dei forestali, che mi fanno da guida, grazie alle ruote chiodate, abbiamo superato file di auto di sciatori e qualche pullman, tutti fermi in mezzo alla strada a mettere le catene. Con una bufera così, la funivia ovviamente è ferma, e gli sciatori ostinati e fiduciosi, una volta arrivati, scoprono di aver messo le catene per niente. La stazione sferzata dal nevischio e incrostata di ghiaccio sembra una base polare. Con i forestali ci infiliamo negli uffici a interrogare un responsabile che conferma tranquillo: per oggi niente da fare, domani invece dicono che farà bello. E rivolto a me, forestiero, aggiunge: la tempesta dell'Etna non ha nulla da invidiare a quella delle Alpi, perché questa è la montagna vera, ma di solito non dura tanto. Per la gara mondiale di sci alpinismo, che c'è tra pochi giorni, non c'è da preoccuparsi. Abbiamo una bella neve e tra poco tornerà anche il sole. Questo è il più bel posto al mondo dove si può sciare con il vulcano alle spalle e il mare davanti. Prima di tornare indietro, entriamo al rifugio Sapienza a bere qualcosa di caldo. Qui, 10 anni fa, il torrente di lava che ha distrutto la funivia, prontamente ricostruita, ha risparmiato l'edificio per pochi metri. Nel rifugio semideserto ci sono due forestali del soccorso alpino che mi sconsigliano di calzare gli sci con le pelli di foca, anche solo per una passeggiata lungo le piste battute. Sulla cartina dispiegata sul tavolo, l'ispettore capo Carmelo Cavallaro mi mostra il percorso tradizionale della traversata in sci da sud a nord o viceversa, da Nicolosi a Randazzo o Lingua Glossa, aggirando la sommità solo dal lato opposto alla Valle del Bove, il solo settore pericoloso per i pendii ripidi e per il ghiaccio. A montagna, come i siciliani veraci chiamano il grande vulcano, sta diventando un paradiso degli sci alpinisti. Qui non hanno tanto da temere le valanghe come sulle Alpi, osserva Cavallaro, perché i pendii, esclusa la Valle del Bove, sono dolci come le dune del deserto. Ma anche i più esperti devono temere il maltempo. Sull'Etna un po' di vento c'è sempre, ma si possono scatenare bufere violentissime perché è una grande cima esposta da ogni lato, piantata al centro del Mediterraneo. Quando si copre, si perde ogni riferimento e diventa impossibile orientarsi. E aggiunge: se poi qui non ci sono crepacci come sui ghiacciai delle Alpi, bisogna guardarsi dalle fumarole che creano delle buche nascoste sotto la neve, pericolose soprattutto con scarsa visibilità. La gara internazionale di 2 anni fa con il vento freddo ha dimostrato che l'Etna può presentare condizioni severe quanto quelle delle Alpi. La gara di cui tutti parlano, perché un po' tutti ci collaborano con entusiasmo, è il quinto trofeo dell'Etna, una delle 6 prove di Coppa del Mondo di sci alpinismo, che si disputerà venerdì 23 e sabato 24. Le altre prove sono ad Andorra, sui Pirenei, a Tromso, in Norvegia, sul Lagorai, in Trentino, e in Val Martello, in Alto Adige. Giovedì sera, mi sottolinea il sindaco di Nicolosi, Antonino Borzì, faremo una sfilata in centro con le delegazioni nazionali degli atleti, precedute dalla banda e da 2 carretti siciliani. L'ultima volta c'era tutto il paese in strada. Una festa indescrivibile che vogliamo riproporre. E per concludere, sabato sera i fuochi d'artificio. Qui, ai piedi del vulcano attivo più grande d'Europa, che si è ingrossato nel corso dei millenni a forza di eruzioni, con il fuoco e la lava incandescente, hanno una certa confidenza e li vivono più come risorsa che come minaccia. Gli organizzatori della gara non hanno gradito il risalto dato dai media all'ultima breve eruzione notturna sull'Etna di qualche giorno fa, che ha seminato un po' di panico tra gli atleti che devono arrivare. Il fenomeno normale e periodico si è esaurito in poche ore. Anche la nube di cenere è ricaduta solo verso nord, sull'altro versante, rassicura il coordinatore dello staff, Vasco Agen, 31 anni, una laurea in scienze politiche. Mi racconta che questa gara è nata per caso, quando ha invitato qui degli amici valtellinesi di Albo Saggia, che hanno trapiantato sul vulcano lo sport alpino. In realtà si tratta di una rinascita, perché a Nicolosi le gare di sci hanno una storia che parte dagli anni 30 ed è stata resa illustre nel dopoguerra dalla Tre Giorni Internazionale dell'Etna. Ma la vera molla, sottolinea Agen, va ben oltre lo sport. Noi vogliamo portare qui giovani dall'Europa a toccare con mano che la Sicilia di oggi non si riduce agli stereotipi dei film di mafia. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Pietro Crivellaro, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Lavorare qualche settimana in miniera, poi andare ai tropici a riposarsi. Il boom minerario che ha investito l'Australia sta dando origine ad una nuova forma di pendolarismo. Sono quasi 100.000 e le chiamano fly in fly out, FIFO, perché lavorano da 2 a 4 settimane nelle zone minerarie d'Australia per poi volare a casa, nelle città australiane d'origine, per un uguale periodo di riposo. Questa categoria sui generis di pendolari è uno degli effetti dello straordinario boom minerario che sta investendo l'Australia. Quasi 200 miliardi di euro in progetti in fase di avanzato sviluppo e altri 180 in investimenti già pianificati. Un'attività vorticosa, i cui proventi hanno finora protetto l'Australia dagli effetti della crisi del debito che sta colpendo gli altri paesi occidentali. Il boom, concentrato in gran parte nelle regioni desertiche del Queensland e del Western Australia, si alimenta voracemente di manodopera, la quale, trattandosi di zone quasi totalmente disabitate, deve ovviamente arrivare da altre parti del paese. Mancano sia il tempo sia la possibilità di costruire ex novo delle città in cui far vivere i lavoratori. La soluzione adottata è quella del pendolarismo aereo fra le zone minerarie e le grandi città australiane. Ma qualcosa sta cambiando nelle tratte percorse dai FIFO. Anziché tornare nelle residenze d'origine, un numero sempre maggiore di commuters preferisce migrare verso i più vicini e confortevoli tropici. Meta prediletta di questo flusso in forte crescita sembra essere Bali, dove, con quello che si spende per vivere a Sydney, Melbourne e altre città australiane, ci si può assicurare un'esistenza da nababbi. Il fenomeno sta assumendo proporzioni tali che alcune linee aeree hanno istituito voli regolari fra le desolate zone minerarie e Denpasar, la capitale dell'isola indonesiana. Dal canto loro, le compagnie minerarie accettano senza problemi di pagare un volo per Bali al posto di uno per una città australiana. Il costo del biglietto, circa 400 euro, è all'incirca lo stesso, e la manodopera torna al lavoro decisamente più rilassata e ritemprata. I più intraprendenti fra questi migranti di lusso, peraltro, non stanno con le mani in mano nei periodi di riposo dalle fatiche minerarie. C'è infatti chi apre attività commerciali e chi costruisce resort turistici, anche in vista di un possibile cambio di vita. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Stefano Gulmanelli, Minatori dei Cieli, dal numero di febbraio del magazine Il. Dalla finta cieca a quella che percepisce la pensione della madre morta 10 anni prima. Anche nelle truffe allo Stato, le donne si rivelano più creative rispetto agli uomini. Le più spregiudicate? 2 ragazze liguri dipendenti di ditte private. Erano in malattia da 6 mesi, ma non si sono fatte scrupolo di mostrarsi in discoteca e di organizzare serate per i clienti del locale. Una si esibiva in apprezzati numeri da cubista, nonostante un certificato medico le imponesse riposo assoluto per un infortunio a una gamba. La più audace? Una signora siciliana che percepiva la pensione della madre morta da 10 anni. Si presentava allo sportello con il libretto e si faceva consegnare il denaro, benché in paese ormai tutti sapessero che la titolare era deceduta da tempo. La più sfrontata? Una donna calabrese che vive a Ravenna. Girava in bici, leggeva il giornale nel bar, commentando pubblicamente le notizie, e mandava avanti un avviato negozio di parrucchiere. ma per l'INPS era cieca e ha percepito una indennità di 43.000 euro l'anno perché riconosciuta invalida totale dalla Commissione Sanitaria. Anche nella casistica delle truffe allo Stato che incidono sulla spesa pubblica, le donne si dimostrano più creative degli uomini, ma questo non è certo un merito, anzi. Basti pensare che molte di loro sono componenti di quelle famiglie di finti poveri che, grazie a una dichiarazione di redditi pressoché inesistenti, scalano le graduatorie di asili nido, scuole dell'obbligo, assistenza sanitaria domiciliare. E così rubano il posto a chi una vita normale non può permettersela, perché i suoi guadagni, pur se non inesistenti, sono bassi davvero. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Fiorenza Sarzanini, Quando la creatività femminile è un furto, da Io Donna, dell'11 febbraio.